Benvenuti a Il Confronto. Oggi ci addentriamo in una delle questioni più complesse e urgenti del nostro tempo, il futuro dell'intelligenza artificiale. La nostra discussione, ecco, prende le mosse dalle riflessioni contenute nel libro Le simmetrie nascoste del premio Nobel Giorgio Parisi e, più specificamente, da un appello che lui stesso ha firmato. Questo appello invoca una leadership morale e l'imposizione di limiti invalicabili allo sviluppo dell'IA. E questo ci porta alla domanda che guiderà la nostra analisi. Le proposte contenute in questo appello, come non so, la creazione di un'istituzione di ricerca pubblica internazionale e una regolamentazione ferrea, sono un percorso realistico per governare l'IA o rappresentano un'utopia destinata a scontrarsi con gli enormi interessi privati e le tensioni geopolitiche in gioco? Io sosterrò che l'approccio delineato da Parisi è una via pragmatica e assolutamente necessaria per mitigare i rischi che corriamo. E io, pur condividendo la preoccupazione, ci mancherebbe, argomenterò che, sebbene le intenzioni siano lodevoli, le forze del mercato e la competizione globale rendono questa visione in pratica irrealizzabile, una nobile aspirazione più che un piano d'azione concreto. Parto da un'immagine che Parisi evoca e che, francamente, mi fa venire i brividi. L'idea di un monopolio dell'informazione gestito da un'unica intelligenza artificiale. Uno scenario che fa sembrare il mondo di 1984 di Orwell quasi ottimistico, perché almeno lì il controllo era umano. Di fronte a questo rischio, la sua proposta, ripresa nell'appello, di creare un grande centro di ricerca pubblico sul modello del CERN non è un sogno ingenuo. No, è una contromisura strategica, l'unica possibile. L'obiettivo non è competere sul piano commerciale, ma creare conoscenza condivisa, un corpo di esperti indipendenti che possa fungere da arbitro, da guida, per una regolamentazione efficace. Dobbiamo garantire che questa tecnologia sia sviluppata per il bene comune, non per il profitto esclusivo di quella che l'appello definisce una manciata di aziende private. I limiti che vengono proposti, come il controllo umano permanente o la responsabilità giuridica esclusivamente umana, questi non sono ideali astratti, sono le fondamenta indispensabili per un futuro sicuro. Riconosco la potenza di questa visione e la serietà assoluta dei rischi, ma è proprio sulla realizzabilità delle soluzioni che le nostre strade, diciamo, si dividono. Il paragone con il CERN, per quanto affascinante, regge fino a un certo punto. Il CERN nacque nel dopoguerra per esplorare la fisica fondamentale, un campo precompetitivo, un territorio di pura conoscenza. L'IA oggi è l'esatto opposto, è il terreno di scontro economico e geopolitico più aspro del nostro tempo. Come si può pensare di creare un oasi di collaborazione scientifica in mezzo a una guerra di fatto dichiarata per la supremazia tecnologica? Lo stesso Parisi, nel suo libro, nota con grande pragmatismo che per addestrare un modello come Llama 3.1 sono servite risorse colossali. Parliamo di centinaia di miliardi investiti da singole aziende. Nessun ente pubblico oggi potrebbe neanche lontanamente eguagliare una simile potenza di fuoco. L'appello invoca la fine di una corsa irresponsabile. Ma quella corsa non è un'aberrazione del sistema, è il motore stesso del sistema. Credere che le grandi potenze, le multinazionali, accettino di sottomettersi a un'autorità internazionale con poteri sanzionatori mi sembra purtroppo un atto di fede. Ma tu parli di eguagliare, e credo sia qui l'equivoco. L'obiettivo di un CERN per l'IA non sarebbe quello di costruire il modello linguistico più grande del mondo. L'obiettivo è creare un contrappeso. Avere un luogo dove le migliori menti del settore pubblico possano studiare, analizzare, validare in modo indipendente quello che esce dai laboratori privati. Oggi la conoscenza su come funzionano davvero questi sistemi, sui loro limiti, sui loro pericoli, è un segreto industriale. Senza un forte impegno pubblico, come sottolineato anche dal presidente Mattarella, auspicando un modello europeo di IA, rimarremo per sempre dipendenti dalle narrazioni e ovviamente dagli interessi di chi questa tecnologia la controlla. Capisco dove vuoi arrivare, ma questo non tiene conto di un fattore cruciale: la velocità. Il settore privato si muove a una velocità che nessuna istituzione pubblica può sperare di eguagliare. Un'istituzione pubblica si troverebbe, di fatto, perennemente in ritardo, costretta a studiare tecnologie che, nel momento in cui vengono analizzate, sono già obsolete. E c'è un paradosso ancora più profondo. Per studiare questi sistemi, un ente pubblico avrebbe bisogno di accedere all'infrastruttura, alle GPU, prodotte da un monopolista di fatto, e ai dati, che sono quasi interamente in mani private. Finirebbe per dipendere dalle stesse aziende che dovrebbe supervisionare. Quindi la tua conclusione è che, siccome non possiamo correre veloci come loro, allora non dobbiamo neanche provarci. Mi sembra un approccio un po' rinunciatario. Anche un osservatorio, come lo definisci tu in modo quasi riduttivo, avrebbe un ruolo fondamentale. Immagina un'agenzia internazionale credibile che possa dire: attenzione, questo nuovo modello rilasciato dall'azienda X presenta questi rischi di bias, queste vulnerabilità, questi potenziali usi impropri. Non sarebbe già un passo avanti enorme rispetto al buio attuale? Sarebbe un passo avanti, certo, ma non risolverebbe il problema strutturale. La realtà è che le scoperte che hanno definito questa era dell'IA come l'architettura dei Transformer sono nate nei laboratori di Google. Non è un caso, richiedono una concentrazione di talento e risorse che il settore pubblico al momento non può schierare. Un CERN per l'IA si troverebbe a commentare le scoperte altrui, non a farne di proprie. Rischia di essere un'autorità senza potere reale, un cane da guardia, diciamo, senza denti. L'influenza vera oggi ce l'ha chi possiede la potenza di calcolo, e quella non è mano pubblica. Ma è proprio la concentrazione di potere che rende necessaria una reazione politica forte. L'avvertimento di Parisi è chiaro. Stiamo andando verso un mondo dove l'informazione, la nostra percezione della realtà, sarà mediata e selezionata da algoritmi controllati da pochissimi. La tendenza naturale del mercato, come la storia di Google o di altri colossi tech dimostra, è il monopolio. Non possiamo essere spettatori passivi. Quando l'appello chiede un'istituzione di controllo indipendente con poteri coercitivi e sanzionatori, non sta descrivendo un'utopia. Sta descrivendo l'unica risposta logica a una minaccia esistenziale per il pluralismo. Noi regolamentiamo settori strategici come il nucleare, il farmaceutico, la finanza, perché l'IA, che ha un impatto potenziale ancora più vasto, dovrebbe essere lasciata all'autoregolamentazione. Perché la storia recente della regolamentazione della tecnologia digitale ci ha insegnato una lezione brutale. È un processo terribilmente lento, farraginoso e quasi sempre in ritardo. Le grandi aziende tecnologiche dispongono di risorse per il lobbying che semplicemente surclassano quelle di molti stati. Possono influenzare la politica, rallentare ogni tentativo di controllo, scrivere le regole a loro vantaggio. E c'è un altro livello, ancora più insormontabile. L'IA non è come il farmaceutico, è un asset strategico nazionale, è l'arma principale nella competizione geopolitica tra Stati Uniti e Cina. L'idea che queste nazioni, nel pieno di una nuova guerra fredda tecnologica, cedano sovranità a un'entità internazionale in un campo così cruciale, francamente mi sembra pura fantasia. Quindi la competizione geopolitica diventa un alibi per non fare nulla. Se un rischio è globale, la risposta deve essere globale, anche durante la guerra fredda. Con una sfiducia reciproca ben maggiore di quella odierna, si riuscì a negoziare trattati per il controllo degli armamenti nucleari. Perché? Perché si capì che l'alternativa era la distruzione reciproca. Con l'IA stiamo affrontando rischi di una magnitudine simile. L'appello non ignora la geopolitica, al contrario, la prende sul serio e propone una via d'uscita cooperativa prima che sia troppo tardi. Il paragone con il nucleare è interessante, ma anche qui c'è una differenza fondamentale. Le armi nucleari erano controllate da un piccolo numero di stati. La tecnologia era complessa, difficile da diffondere. L'IA è software, è molto più, diciamo, democratica nella sua diffusione, e questo la rende molto più difficile da controllare a livello globale. Un trattato firmato dalle grandi potenze potrebbe essere aggirato da attori più piccoli o non statali. E anche tra le grandi potenze, come puoi fidarti che il tuo avversario stia rispettando i limiti quando gran parte della ricerca avviene a porte chiuse, protetta dal segreto industriale e militare? La sfiducia dominerebbe e ogni accordo sarebbe annacquato o reso inefficace. Ma ci sono delle linee rosse che dovrebbero essere invalicabili per chiunque, a prescindere dalla sfiducia. E qui arriviamo al punto forse più concreto e urgente dell'appello. Il principio secondo cui solo gli esseri umani possiedono lo status di soggetti morali e giuridici. Questo non è un dettaglio filosofico, è il fondamento della nostra civiltà giuridica. E si applica direttamente alla questione dei sistemi d'arma autonomi letali, i cosiddetti laws. La richiesta di un bando internazionale o come minimo di garantire che la responsabilità legale sia sempre attribuibile a specifici attori umani. Ecco, questa è una proposta concreta, una linea che la comunità internazionale deve tracciare. Come dice Parisi, la decisione di chi uccidere non può essere lasciata a un algoritmo. Questo non è un problema di mercato, è una questione di etica fondamentale. Sono d'accordo al 100% sul principio etico. Nessuno, spero, vuole un futuro alla Terminator. Il problema, ancora una volta, è la traduzione di questo principio in una pratica globale vincolante. La corsa irresponsabile di cui parla l'appello è già pienamente in atto, proprio in ambito militare. La pressione per delegare decisioni a macchine in scenari di conflitto ad alta velocità, dove i tempi di reazione umani sono considerati un limite strategico, sarà enorme. Se una nazione percepisce che un avversario sta sviluppando armi autonome, si sentirà costretta a fare lo stesso per non subire un divario militare catastrofico. È un classico dilemma della sicurezza, insomma. Ma allora cosa proponi? Di accettare passivamente la deriva verso le armi autonome? Tracciare una linea rossa e sanzionare chi la supera è un atto politico. Certo che è difficile, ma l'alternativa è peggiore. Creare un tabù internazionale contro i robot assassini, come si è fatto per le armi chimiche o biologiche, è possibile. Richiede volontà politica, non la semplice accettazione delle dinamiche competitive. Non propongo di accettarlo passivamente. Propongo di essere realisti su quali strumenti funzionano. Un trattato internazionale vincolante sarebbe un grande passo, certo, ma la sua efficacia dipenderebbe da meccanismi di verifica e da una fiducia reciproca tra potenze rivali che oggi semplicemente non esiste. È più probabile che si finisca con dichiarazioni di principio non ratificate o piene di scappatoie che permettono di continuare la ricerca sotto mentite spoglie. La realtà della competizione militare spinge nella direzione opposta a quella dell'appello. La logica della deterrenza prevarrà su quella della cooperazione. A me sembra che la tua posizione, pur partendo da un realismo, diciamo, condivisibile, porti a una forma di paralisi. Se ogni soluzione si scontra con la realtà del mercato e della geopolitica, allora siamo condannati. Io credo che i pericoli evidenziati da Parisi siano troppo grandi per essere ignorati. L'appello non è un documento utopico, ma una mappa pragmatica per la sopravvivenza in un'era tecnologica senza precedenti. Costruire istituzioni pubbliche forti, stabilire regole chiare, mantenere il controllo umano non è solo desiderabile, è l'unica via per garantire che l'IA serva l'intera umanità e non solo gli interessi di una ristretta e potente minoranza. È una sfida immensa, non lo nego, ma è una sfida che non possiamo permetterci di perdere. Guarda, le intenzioni dell'appello sono giuste e le condivido nel profondo, ma la sua implementazione si scontra con le poterose e durissime realtà del capitalismo globale e della geopolitica. Il predominio del settore privato non è un'opinione, è un dato di fatto strutturale. Gli incentivi per una competizione sfrenata, sia economica che militare, sono oggi molto più forti di qualsiasi appello alla collaborazione. Non dico che non si farà nulla. Probabilmente otterremo qualche forma di regolamentazione parziale su aspetti specifici, magari sull'uso dei dati, sulla trasparenza, ma la visione complessiva di una governance globale, pubblica e forte dell'IA rimarrà, con ogni probabilità, una nobile ma irrealizzabile aspirazione. Il pragmatismo, a mio avviso, consiste nel riconoscere questi limiti e lavorare all'interno di essi, non nel sperare di poterli trascendere. Su una cosa però siamo assolutamente d'accordo. La posta in gioco è altissima. Altissima. Forse la più alta che l'umanità abbia mai affrontato. Ed è qui che il lavoro di Parisi è così prezioso. Ci ricorda che, sebbene l'intelligenza artificiale nasca dai principi della fisica e della matematica, il suo destino non sarà determinato dalla tecnologia stessa, ma dalle complesse, difficili scelte politiche, etiche e sociali che siamo chiamati a compiere. Ed è su queste scelte che il suo libro ci invita a una profonda e quanto mai necessaria riflessione.